Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo in primo luogo dei dati usciti oggi sulla disoccupazione, che ahimè, come prevedibile, non sono buoni. Devo dire che in Italia la disoccupazione è rimasta ferma nel mese di marzo, ma siamo a un nuovo record sulla disoccupazione giovanile al 38,4%, vuol dire che 635.000 giovani in questo paese tra i 15 e i 24 anni non hanno un lavoro, pur cercandolo, perché i dati sono sulla disoccupazione, non sull'occupazione. Di questo, annuncio subito, parleremo tra poco con l'ex ministro al lavoro Elsa Fornero. E quindi, se volete mandare messaggi o domande al 349-238-6666 oppure al sito di Focus Economia su Facebook, domande, critiche, quello che volete, insulti no, tanto sapete che non li leggo in questo programma, gli insulti non passano e né le parolacce. Ancora, per quello che riguarda invece la seconda ora del programma, c'è la conferenza stampa tra Enrico Letta e Angela Merkel, l'incontro a Berlino, ci collegheremo con Berlino per cercare di capire poi cosa uscirà dalla conferenza stampa e se riusciamo la trasmetteremo anche in diretta o parzialmente in diretta. È chiaro che questa è la prima tappa del viaggio, tra virgolette, di Enrico Letta nelle, come si diceva una volta, nelle cancellerie. Questa è veramente una cancelliera. E quindi una cancelleria dell'Europa, domani a Parigi, poi Bruxelles per presentare il nuovo governo. E in realtà poi Letta ha già parlato questa mattina, lo ascolteremo. Per quello che riguarda invece la reazione dei mercati, meno 0,86% Milano, meno 0,35% Parigi, più 0,55% Francoforte, Londra meno 0,61%, l'America meno 0,20%, va bene Finmeccanica più 2,90%, Parmalat più 1,90%, ST Microelectronics più 1,70%, Tenaris più 1,30%. Va male Fiat Industrial, ossia i camion e trattori, meno 5,25%, Exor meno 4,70%, Luxottica meno 3,60%, L'Automatica meno 3,30%, Salvatore Ferragamo meno 2,30%, Banco Popolare meno 2%, Pirelli meno 2%. Ancora Fiat intesa come auto meno 2, Mediobanca meno 1,80 come Fondiaria. Sai, vedo già molte domande per l'ex ministro Fornero. Non iniziamo, per favore. Posso dire una cosa, ma lo chiedo con la massima serietà. Domande sì, insulti no, e soprattutto se c'è un tipo di insulto che mi fa venire i nervi è quando uno se la prende con la gender, come si dice in italiano, con il sesso, cioè il fatto che il ministro sia una donna. Lasciamo stare il sesso del ministro e occupiamoci dei provvedimenti presi dall'ex ministro Elsa Fornero, molti dei quali, voi sapete, li ho criticati io per primo, in primo luogo la gestione anche della comunicazione sugli esodati, la riforma del mercato del lavoro e quant'altro. Però andiamo con le domande con i contenuti. Detto ciò, dicevo della borsa, l'euro su dollaro a quota 1,31,67, la fiducia al governo, come i nostri GR vi hanno ampiamente raccontato, il governo di Enrico Letta ha incassato la fiducia anche al Senato, 233 sì, 59 no e 18 astenuti. Su questo appunto abbiamo anche delle dichiarazioni di questa mattina di Enrico Letta, che adesso vi faccio ascoltare, perché Enrico Letta ha detto: attenzione, l'emergenza non finisce con la fiducia al governo, non dico che abbia messo le mani avanti, ma quasi. E ha detto: la giornata è carica di molta preoccupazione, ma insomma non pensate che una volta passata la fiducia qui ormai abbiamo concluso o la strada sia in discesa. È una giornata che si è caricata di molta preoccupazione, perché da questi tre momenti, la lettura dei giornali di stamani, le cose che ho ascoltato dal presidente Shimon Peres e le tante cose, alcune delle cose che ho ascoltato qui, mi sono reso conto che c'è un grande problema, c'è un carico di aspettative assolutamente eccessivo su questo governo rispetto a tutto quello di cui il Paese avrebbe bisogno e che è stato anche qui ripetuto, e rispetto alla oggettiva, e la voglio ripetere qui, fragilità di quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo. Se non c'è consapevolezza di questo e se c'è invece la sensazione che tutti i problemi sono risolti, abbiamo oggi un governo forte, fortissimo, che è a posto, che ha risolto tutto e che quindi da domattina è in grado immediatamente di dare risposta ai tanti problemi che ha il Paese, io credo che abbiamo tutti sbagliato, non è così. La situazione che abbiamo di fronte è, rimane una situazione di grandissima difficoltà e di grandissima emergenza. E la scelta che tutti insieme qui oggi facciamo e abbiamo fatto è figlia di questa situazione di grande emergenza. E se noi siamo qui carichi di determinazione, buona volontà, energia, consapevoli dei nostri limiti, è perché c'è questa situazione di emergenza che non scompare perché ieri la Camera ha dato la fiducia al Governo e perché oggi, come mi auguro, il Senato confermerà questa fiducia. E poi sempre il neo primo ministro ha detto che le nostre istituzioni non funzionano. Quanto ai 18 mesi di vita, Letta ha detto, ho parlato di 18 mesi per la convenzione non perché è rispettoso del Parlamento, che è libero e sovrano, ma perché ritengo che la vita del governo debba essere legata a adempimenti certi. E poi un appello rivolto, secondo me, ai suoi colleghi del PD. Guardiamo la realtà, non raccontiamoci favole, riferito poi all'esito delle elezioni. Anch'io avrei voluto un risultato elettorale diverso, anch'io avrei voluto essere non seduto qui, ma magari a un lato di questo tavolo in un governo politico diverso da questo. Ma la realtà che abbiamo di fronte è, credo, il principale tema che un uomo politico deve mettere al centro della sua azione. Il resto è tutto secondario. O c'è questa attenzione a innervare i valori che ognuno di noi ha in questa realtà, oppure raccontiamo a noi stessi delle favole per stare tranquilli e per toglierci i pesi dalla coscienza. Diciamo, non gliela ha mandata a dire. Comunque torniamo sui dati economici, perché oltre alla disoccupazione c'è un dato sull'inflazione che in realtà può essere anche un buon dato, nel senso che quando l'inflazione crolla ai minimi dal 2010 all'1,2% è un buon dato, i prezzi dei beni crescono meno. In realtà questo nasconde una frenata, se non un calo significativo dei consumi. E il dato in realtà riguarda anche il calo registrato per i beni energetici, siamo all'1,2%. Detto ciò, anche in Germania siamo ai minimi, in Francia siamo ai minimi. Cioè, se l'area euro non ha un problema, lo capiscano anche alla Bundesbank, è l'inflazione, con buona pace della Repubblica di Weimar. Tutto abbiamo tranne che l'inflazione. Infatti c'è chi dice già che ci avviamo verso una sindrome giapponese: inflazione bassa, pochissima crescita, stagnazione. E infatti le difficoltà nei consumi si vedono anche sui dati sulla benzina e sul gasolio. Meno 4% il calo dei consumi di benzina e meno 3,6% quelli di gasolio, mai così bassi dal 2009. Mentre i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, dei beni acquistati più frequentemente, sono saliti solo dell'1,5% rispetto a un anno fa. Ripeto, perché siamo tecnicamente, secondo me, in deflazione, cioè se levassimo la componente petrolifera, ormai pochissimi sono quelli che si possono permettere un aumento dei prezzi con questi consumi. Per quello che riguarda il governo Letta, oggi il presidente del Parlamento Martin Schulz ha detto, congratulandosi col governo, bene il discorso, buono il discorso di Letta contro l'austerità. E quindi è un pensiero diverso da quello tedesco, ma ripeto, ascolteremo parte della conferenza stampa in diretta, se ce la facciamo, dalle 18 in poi. Ancora per quello che riguarda gli altri dati, faccio notare che sull'IMU, come raccontavano anche i nostri GR, c'è un po' di dialettica, chiamiamola così, perché Berlusconi ha detto o la aboliamo o il PDL toglie la fiducia, Il segretario della CGIL Camus ha detto no a un'abolizione to court. L'Unione Europea ha chiesto di rispettare gli obiettivi. Insomma, molta, molta dialettica. E anche Dario Franceschini, anche il senatore del PDL Altero Matteoli, con riferimento alle dichiarazioni fatte dal ministro per i rapporti con il Parlamento Dario Franceschini aveva detto che l'IMU non verrà tolta ma ci sarà una proroga della rata. Beh, Matteoli ha detto: le parole del ministro Franceschini sull'IMU non le possiamo condividere, chiediamo al Presidente del Consiglio Letta che chiarisca le intenzioni del governo in sede di replica al Senato. Poi parleremo di quanti soldi servono per togliere l'IMU, almeno quella di luglio, poi se uno vuole anche ridarla è il doppio, e poi c'è l'IVA. Io, come dicevano ieri i nostri illustri ospiti, vedo un'unica soluzione, perché aumentare le tasse non si può. Fare tagli alla spesa pubblica da qua a luglio vuol dire solo fare tagli con l'accetta, lineari, e quindi fare morti e feriti senza sanare il problema. L'unica soluzione è avere uno o due anni in più di tempo dall'Europa, come hanno avuto la Francia e la Spagna, per centrare l'obiettivo del deficit pari a zero. Non muore nessuno se anche abbiamo il deficit allo 0,8 invece che allo 0, allo 0,5, allo 0. Negli Stati Uniti e in Giappone neanche se lo pongono questo problema, no? Invece che andare a stritolare il paese. Comunque, rapidamente invece, prima di iniziare con il ministro Fornero, due notizie brevissime sugli sprechi, ma anche alcuni elementi virtuosi della nostra pubblica amministrazione. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbassare più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, mentre il Quirinale francese, ossia l'Eliseo, mette in vendita anche il vino, perché ha un'importante collezione di vino, c'est la crise oblige, oblige, mi guardano male dallo studio, ho sbagliato, crise oblige, avete ragione, scusatemi per il mio francese da ripetente. Allora, dicevo, mentre l'Eliseo mette all'asta un importante numero di bottiglie provenienti dalle cantine dell'Eliseo, appunto, un'asta all'Hotel Drouot il prossimo 30-31 maggio, tra i vini in vendita, per chi fosse interessato, bottiglie pregiatissime, il Petrus del 90, 2200 euro, ma anche il Bordeaux-Bourgogne, Vino della Loira, Côte du Rhône, Alsazia, 12.000 tipi di vino. Il nostro Quirinale, o per giocare con le parole, il nostro Eliseo, ha ridotto del 15% l'indennità di funzione del segretario generale, del 12% i compensi dei consiglieri del Presidente della Repubblica e del 5% le indennità previste per il personale comandato e distaccato. Non se la passano invece bene i dipendenti del Comune di Salerno. Perché? Perché sono senza stipendio. L'accredito delle spettanze del mese di aprile è saltato perché le casse municipali sono desolatamente vuote. A nulla è servita la richiesta dell'amministrazione municipale alla tesoreria dell'ente, il Banco di Napoli, di far ricorso a un'anticipazione di 70 milioni di euro. La banca gli ha detto no, non vi apro linea di credito perché mancano alcune garanzie. La tesoreria comunale, ovvero il Banco di Napoli, non ha dato appunto l'ok all'anticipazione della cassa. Sono molto preoccupati anche i sindacati, perché è la prima volta che succede per i dipendenti municipali. E intanto appunto assemblea di tutti i dipendenti municipali per il prossimo 3 maggio. Io non so, allora è chiaro che i dipendenti vanno pagati, immagino però che anche il Banco di Napoli, per dire no, non abbia ricevuto le garanzie sufficienti. Insomma, il Banco di Napoli effettivamente non fa, lavora come una banca, mi tocca dargli ragione stavolta. Vabbè, questi i problemi dei dipendenti del Comune di Salerno, problemi ben più grossi, o meglio, analoghi ma anche più grossi, hanno invece i disoccupati italiani, come oggi è ricordato dall'Istat nel rapporto mensile. Sì, parliamo di disoccupazione perché, come ahimè è prevedibile, c'è un nuovo record di disoccupati a marzo nell'Unione Europea, quella 17. E i 17 paesi dell'area euro infatti hanno segnato a marzo 19.210.000 persone senza lavoro. È un nuovo record, appunto, ahimè, che non avremmo mai voluto vedere, al 12,1% la disoccupazione della popolazione attiva. In crescita, anche se di poco, rispetto a febbraio, dove era il 12%. E poi, per quello che riguarda casa nostra, la disoccupazione italiana resta a un livello alto, ma non è cresciuta, all'11,5%. Questo è il dato dell'Istat destagionalizzato, anche se ancora provvisorio. Su base annua il tasso risulta in crescita di 1,1% rispetto quindi al marzo del 2012. Gli occupati 22.674.000, 51.000 in meno rispetto a febbraio, con una perdita di 248.000 unità. Ricordiamo sempre che una cosa sono i disoccupati e l'altra cosa sono gli occupati. Perché gli occupati il dato sugli occupati va a vedere chi lavora tra tutti quelli che potenzialmente potrebbero lavorare. I disoccupati sono solo quelli che cercano lavoro e non riescono a trovarlo. La differenza è data da quelle persone che hanno smesso di cercare lavoro o non sono interessate a cercare lavoro e non rientrano nei disoccupati, ovviamente. La disoccupazione giovanile resta il dato più preoccupante, al 38,4%, anche qui un record, tra i 15 e i 24 anni. Sono 635.000, appunto tra i 14 e i 24 anni, le persone che sono in cerca di un lavoro in Italia. Consola poco sapere che nel Trentino Alto Adige l'occupazione in realtà tra 2007 e 2012 sia salita del 7,2%, perché è un dato virtuoso, ma riguarda appunto solo il Trentino Alto Adige. E consola ancor di meno sapere che, secondo la Confcommercio, ma lo diamo perché è un dato comunque emblematico, l'Italia è un paese a corto di pizzaioli. Ne mancherebbero almeno 6.000 di pizzaioli. Le 25.000 pizzerie italiane danno lavoro a 240.000 persone, 9 miliardi di giro d'affari, e appunto mancano almeno 6.000 pizzaioli. Io lo dico perché, insomma, anche questa è un'informazione che può risultare utile. Allora, in attesa poi di ascoltare la conferenza stampa tra il neo presidente del Consiglio Enrico Letta e Angela Merkel, la visita di oggi a Berlino, io vorrei commentare questi dati con chi questi dati li conosce bene, anche perché fino a alcuni giorni fa era la titolare del Ministero del Lavoro. Professoressa Elsa Fornero, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. È tornata al lavoro oggi? Sì, sono qui nel mio ufficio all'Università di Torino. E come l'ha trovato l'ufficio? Come l'ho lasciato in gran fretta il giorno 15 novembre 2011, non ho avuto tempo allora di riordinare la mia scrivania e quindi stamattina l'ho ritrovata con lo stesso disordine creativo, se si può dire così, come dicono tutti quelli che hanno scrivanie con troppe carte sopra, lo stesso disordine di quella giornata. Infatti sono qui anche a cercare di mettere un po' di ordine, perché devo riprogrammare. Adesso arriviamo ai dati sulla disoccupazione, lo dico agli ascoltatori che già scrivono al 349-238-6666 e sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Ma volevo capire una cosa: com'è tornare alla vita normale, alla vita reale, se mi passa il termine? Sì, beh, non che quella da ministro fosse fittizia, quella da ministro per me è stata estremamente densa, concitata, con domande a 365 gradi, anche perché io non lo dico così per cercare giustificazioni rispetto a niente, però il Ministero del Lavoro è un ministero molto pesante di problemi. Si aggiungano le politiche sociali, che sono un altro tema, soprattutto in momenti in cui le risorse per le politiche sociali vengono sempre ridotte, e le orecchie che hanno, diciamo così, attenzione alle richieste sono poche o poco sensibili. E poi c'era tutto il tema che delle pari opportunità. Oggi sono divise, separate dal lavoro Io credo che sia stato una buona cosa averle messe insieme, perché credo che oggi le pari opportunità si giochino soprattutto sulle chance nel mondo del lavoro. Mm. È a queste che bisogna pensare. E qui, se posso dirlo, ma io devo anche difendere un pochino il mio lavoro, nel quale io ho creduto e continuo a credere. E cioè tutto quello che è la nostra riforma tende a fare un mondo del lavoro inclusivo, dove noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare in modo da far sì che tutti quelli che sono in età di lavoro, hanno l'abilità per farla e per svolgere questa attività, e debbano poterlo fare, che sono i giovani, che sono le donne, sono i lavoratori che hanno poco più. No, questo come auspicio è assolutamente condivisibile. Mi sembra però che con i dati che ho appena letto andiamo verso un mondo esclusivo, perché qua stiamo escludendo giovani e altre categorie dal mercato del lavoro. Però adesso arriviamo ai dati. Volevo capire una cosa: quindi secondo lei è un errore spacchettare il Ministero del Lavoro con il Ministero delle Pari Opportunità? No, non voglio dire che sia stato un errore, c'è ovviamente una certa logica nell'assegnazione delle deleghe, quindi nell'impacchettare e spacchettare ministeri. Voglio dire soltanto che per me è stato molto importante guardare le pari opportunità anche sotto la prospettiva del mondo del lavoro, perché per le donne, per esempio, le pari opportunità si giocano molto sul mondo del lavoro. Ecco, dal punto di vista dell'inclusione a cui lei faceva riferimento, qua mi sembra però che andiamo verso una esclusione, nel senso che i dati che ho appena letto vanno in questa direzione. Come le stavo dicendo, vorrei capire due cose, prima appunto di un commento sui dati però ancora. Lei è stato uno dei ministri forse più attaccati, si può anche capire, perché il tema e le riforme che lei ha introdotto hanno riguardato le pensioni da un lato e la riforma del mercato del lavoro. Qual è il rimpianto, qual è l'attacco che le è piaciuto di meno innanzitutto? Quello più ingiusto secondo lei? Beh, è stato ingiusto intanto personalizzare le riforme, perché io ho fatto le riforme facendo parte di un governo che intanto me l'ha chiesta, cioè io sono una persona da sempre molto abituata al senso del dovere, e io le ho fatte mettendoci la mia competenza, se vogliamo, lo spirito di servizio, ma non le ho fatte come iniziative personali di Elsa Fornero. Ma si è sentita poco difesa dal governo Monti? No, non in voglio dire momenti. Quello, voglio dire che lei mi ha chiesto che cosa mi ha dato fastidio degli attacchi, la personalizzazione, che voleva dire non entrare nel merito delle riforme, ma attaccare la persona. Questo è una brutta caratteristica in Italia, vorrei dire è veramente brutta. E poi sì, c'è il fatto che c'è quello che a me ha creato proprio sofferenza, il fatto di constatare che c'è molto livore in questo paese, che noi siamo una società che abbiamo una dose di livore eccessivo, e ci sono molti che lo creano ad arte. Ma secondo lei il fatto che fosse donna ha pesato? Sicuramente sì, lei ha ben visto quante volte le due lacrime mie, che erano lacrime anche da stress, proprio perché io le riforme le ho fatte, ma certo non per mia soddisfazione personale, eppure le lacrime di altri, parlo in particolare di uomini, sono sempre espressione di nobili sentimenti. Le mie sono state in larga misura, poi ci sono persone che hanno capito benissimo, però ridicolizzate. In quanto donna. E quindi diciamo anche un atteggiamento sessista. Senta, dopo il metodo e la pubblicità, però, professoressa Fornero, visto che le ho chiesto qual è l'attacco che più la ferita, le è dispiaciuto, vorrei però sapere anche cosa farebbe, cosa non farebbe se potesse tornare indietro. E quindi dov'è che ha sbagliato, dov'è disposto a chiedere scusa. A me vengono in mente alcuni temi, gli esodati da un lato, la riforma del mercato del lavoro dall'altro, però poi insomma. Non voglio rispondere al suo posto. Meteo, pubblicità. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, il nostro ospite oggi, l'ex ministro Elsa Fornero. Allora, lo dico a chi sta scrivendo, il ministro ha sbagliato, ha detto 365 gradi, vabbè, invece che 360, però non penso, professore Elsa Fornero, che sia questo, diciamo, l'elemento su cui lei eventualmente vuole chiedere scusa. Che cosa non rifarebbe se tornasse indietro? Dicevo prima del meteo, qualche spunto glielo posso fornire io: gli esodati, il balletto di cifre, la comunicazione, la sottovalutazione del problema. Su questo, sugli esodati, vorrei farle ascoltare che cosa ha detto ieri il neo presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha affermato che si è rotto un patto tra la comunità e gli esodati, tra la cittadinanza e gli esodati, e che il nuovo governo si impegnerà a ristabilirlo. Permettetemi di soffermarmi un attimo sulla grande tragedia di questi tempi, che d'altronde al sud tocca punte di desolazione e allarme sociale. È la questione che sarà la prima priorità del mio governo, la questione del lavoro. Solo col lavoro si può uscire da questo incubo di impoverimento e imboccare la via di una crescita non fine a se stessa, ma volta a superare le ingiustizie e riportare dignità e benessere. Senza crescita, anche gli interventi di urgenza su cui ci siamo impegnati e che qui ribadisco, rifinanziamento delle casse integrazioni in deroga, superamento del precariato anche nella pubblica amministrazione, sarebbero insufficienti. In particolare, con i lavoratori esodati la comunità nazionale ha rotto un patto e la soluzione strutturale di questo tema è un impegno prioritario di questo governo. Professoressa Fornero, si sente responsabile di aver rotto un patto tra la comunità e gli esodati, tra la comunità, tra il senso civico italiano e gli esodati? Guardi, se lei vuole, io posso anche chiedere scusa a tutti quelli a cui ho creato angoscia, ma io non credo di essere responsabile. Io posso andare a quelle giornate, le ripeto, sono state giornate in cui la cosa che è stata chiesta a questo ex ministro era quello di dire: bisogna fare una riforma delle pensioni. I risparmi di spesa che venivano fuori sembravano sempre insufficienti, e non sto dicendo cose così nel mondo della fantasia, perché anche le misure che poi sono state aggiunte e che non c'entrano con la riforma delle pensioni, che sono l'aver tolto indicizzazione alle pensioni salvando soltanto quelle bassissime, e già questa è stata una grossa conquista, perché all'inizio non c'era spazio neppure per salvare dal taglio dell'indicizzazione le pensioni più basse, e quando all'elenco di tutte le persone da salvaguardare io chiedo una stima agli uffici e mi viene detto 50.000, poi portate 65.000, io avrei dovuto dire: fermi tutti, io ho bisogno di 15 giorni per verificare che questa cifra è corretta. Io non l'ho fatto, avrei dovuto, certo, non l'ho fatto, e dopo ci siamo accorti, ma io credo che neanche chi mi ha dato la cifra fosse pienamente consapevole. Cioè Mastro Pasqua, l'INPS? Ma magari anche, però quello che voglio dire è che, guardi, il difetto sta nel fatto che ci fossero tantissimi accordi dei quali nessuno era a conoscenza e che quindi non c'era un registro. Però, professoressa Fornero, se io dicessi che tornando indietro, la storia non si fa con i se e con i ma, siamo d'accordo, però tornando indietro lei aspetterebbe 15 giorni in più prima di dare la cifra sugli esodati? Se mi dicessero che c'è il tempo, sì, ma allora a me non è stato detto che io avevo 2 mesi, è stato detto che io dovevo chiudere in poco più di 15 giorni. Senta, c'è un altro tema che mi sta a cuore, che riguarda la riforma del mercato del lavoro, perché lì anche la Confindustria, non è un mistero, ma anche altri osservatori hanno detto: avete fatto un pastrocchio perché per tenere assieme troppe, sintetizzo in maniera un po' brutale, per tenere assieme troppe richieste, sindacati da una parte e dall'altra, avete irrigidito il lavoro in ingresso e non flessibilizzato il lavoro in uscita. Guardi, io vorrei che lei una volta mi desse l'opportunità di parlare con me nel merito, perché io sento sempre dire che è un pastrocchio, che non è fatta bene, ma non sento mai dire esattamente dove. Mi dispiace, ma ieri ho anche sentito nel programma la riforma degli ammortizzatori sociali. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse una parola, una, per la nostra riforma degli ammortizzatori sociali, perché quest'ASPI è una riforma importante, bisognerà che ci si accorga e io vorrei veramente che si passasse a considerare che oggi anche in Italia noi abbiamo un ammortizzatore sociale che è fatto non per tenere le persone lontane dal mondo del lavoro anche 20 anni, e questo è un dato di fatto, non è un'invenzione mia, ma per cercare di renderle, di trovare una nuova occupazione quando si è persa quella precedente. Questo è un discorso molto importante, secondo me, un pezzo molto importante della riforma. Tutti si limitano a dire, guardi, io ho fatto anche una riunione prima di venire con tutte le associazioni datoriali, ho parlato loro di apprendistato, che è una cosa a cui io tengo moltissimo. Ho detto, ditemi dove sono le cose che non vanno. E sa che cosa mi dicevano alla fine? Il costo. Allora siamo lì, siccome il costo è fatto da retribuzioni e tassazione, contribuzione sociale e tasse, allora o riduciamo il primo, e non si può fare secondo me, anche se, e questo glielo devo dire, ci sono molte voci in Europa che premono per una riduzione dei salari. Io mi sono sempre opposta, trovo che i salari in Italia sono bassi anche perché è bassa la produttività, ma sono bassi e non è il caso. Beh, anche perché c'è un'altra pressione fiscale sui salari, Ecco, no, ma appunto, e l'altra voce, no, io parlavo dei salari netti e della componente fiscale. Io credo che quella contributiva serve per fare le pensioni di domani, è difficile tagliarla, ma la componente tassazione, sa, se mi avessero detto che era possibile tagliarla, quando io ho introdotto l'anno scorso ad agosto il tema dell'abbassamento del cuneo fiscale contributivo, non c'erano risorse. Senta, io ho ancora qualche minuto, non moltissimi, 4-5 minuti, però lei mi deve promettere un'altra trasmissione in cui parliamo di merito della riforma del mercato del lavoro, cioè entriamo, perché io sento sempre ma guardi, non ho nessun problema a prometterglielo, anche perché arriveranno in maggio dal neogoverno varie proposte e mi piacerebbe discuterle con lei. Le volevo chiedere solo due cose. La prima, ho capito, insomma, lei dove dice, insomma, tornassi indietro faremo un altro tipo di comunicazione, però visto che adesso è il momento dei bilanci, lo dico anche a me che faccio questo lavoro, lei ha avuto la sensazione che poi nella vita sia più facile analizzare, studiare, osservare, nel caso mio raccontare, criticare, che poi fare? Cioè che quando uno enormemente più facile. Io sono qui adesso alla mia scrivania, posso predispormi a scrivere un nuovo, come li chiamiamo noi, paperino, cioè un piccolo lavoro scientifico, metto un po' di ragionamento, qualche dato, tiro qualche conclusione, magari qualche conclusione di tipo politico-economico, dico si dovrebbe fare così, poi ci aggiungo qualche caveat ed è fatto. Ma se le dicessi che è più facile fare i professori o giornalisti che i ministri? Beh, io direi che lei ha tutte le ragioni di questo mondo, c'è una enorme differenza. E diciamo che io credo che di essere stata aiutata, altrimenti non a priori, se avessi avuto l'idea di tutto quello che è stato, non avrei sicuramente pensato che non ce l'avrei fatta. E chi è che l'ha aiutata, mi scusi? Ah, io dico qualcuno che mi ha aiutata. Suo marito, non so, la famiglia, Monti, ci dica. Non ci faccia venire strani dubbi. No, voglio dire anche qualche magari il cielo, mettiamola così, il cielo. Un'ultima domanda, professoressa Fornero, alla luce dei dati che abbiamo, noi abbiamo ragionato sulla sua esperienza perché mi interessava, poi le prometto che entreremo nel merito in altre interviste, però insomma qui abbiamo, stiamo creando la generazione senza futuro, è una generazione appunto che naviga nell'oblio. Ora, con tutto, uscendo un attimo dall'elemento biografico, mi dice come cavolo facciamo a far ripartire l'occupazione, perché Io purtroppo, da quello che vedo, l'unica recita che vedo è tornare a investire sulla crescita e avere un po' più di margini in Europa. Ma lei? Io le dico tre cose. La prima è che per risolvere il problema dell'occupazione ci vogliono misure macroeconomiche adesso. Quindi l'Europa? Che vuol dire far partire la domanda. Le misure macroeconomiche non possono che essere a livello europeo. Noi non abbiamo l'autonomia per una politica fiscale che possiamo decidere al nostro interno. Non ce l'abbiamo in maniera piena, ma questo è naturale perché noi siamo parte dell'Europa e l'Europa per noi vuol dire tanto e i giovani sanno che secondo me la loro prospettiva è proprio quella di essere dentro l'Europa, non di separarci. La seconda osservazione che voglio dire è questa. Quando mi rimproverano tutta questa restrizione delle flessibilità, guardi che questo è difesa contro il precariato. Quindi noi da un lato diciamo la riforma ha ridotto la flessibilità, però dall'altra parte ci dimentichiamo che tutta questa successione di contratti a tempo determinato, mordi e fuggi, quella ha creato la precarietà e quella sì rischia di far partire una generazione. Senta, su questo... E però c'era la terza cosa. Mi dica. Allora io le dico che la riforma secondo me ha buone norme, anche sul lato della flessibilità, poi ci entreremo la volta che lei mi inviterà a parlare nel merito, però in questo momento di recessione bisogna rendere il lavoro meno costoso, quindi bisogna prendere tutte le risorse che sono a disposizione e ridurre il costo del lavoro. Guardi, le prometto che torneremo a parlare appena avremo anche una proposta del governo. Mi dica solo un'ultima cosa, se lei domani dovesse incontrare un esodato, che cosa gli direbbe? Guardi, io rispondo a molti di loro e in genere lo ascolterei, cercherei di spiegare perché abbiamo fatto quella riforma e mi augurerei che sia una persona che è già stata salvaguardata, perché anche questo, io vorrei dirlo in maniera pacata, io non credo che oggi si possa parlare di emergenza. L'INPS deve fare, forse ce l'ha messa tutta per fare partire le prime 65.000 lettere e pare, così mi hanno detto, che siano in realtà 63.000, che vuol dire che si risparmiano un po' di soldi, un po' di risorse che possono essere messe nel fondo che è stato costituito proprio per la salvaguardia. Ci sono gli altri 55.000 e io mi auguro che arriveranno presto, ci sono i 10.000 della legge di stabilità e i 10.000 della mobilità Sacconi. In totale fanno 140.000 persone. Aver determinato una, così, una salvaguardia per 140.000 persone non può più voler dire che oggi siamo in emergenza. Quindi non c'è un'emergenza esodata in questo momento. No, c'è un processo in corso, ma non un'emergenza esodata. E serietà. Allora, professoressa Elsa Fornero, bocca al lupo per la sua nuova attività, anzi per il ritorno al suo vecchio lavoro. Le ho promesso che tornerà appena avremo una proposta del governo, vedremo. La commenteremo sicuramente anche con lei. Grazie all'ex ministro del lavoro. Grazie. Elsa Fornero. A voi, buonasera. E però una battuta, professoressa, nel finale gliela devo fare perché ce l'ho qua da 20 minuti. Lei è tornata al lavoro, c'è chi è al lavoro non è mai tornato. E c'è anche chi ci vorrebbe tornare al lavoro ma non può. Traffico! minuti, adesso arriveremo anche alla borsa. Mi interessava, allora dico a alcuni ascoltatori, sappiamo tutti quanti errori possa aver fatto anche il ministro, però due cose, non è nello stile di chi vi parla invitare qualcuno per insultarlo, per avere idee già preconcette. Che gusto c'è? Uno le critiche allora le fa da solo senza ospiti. L'altra cosa, obiettivamente, io non ho nessuna riverenza nei confronti del ministro Fornero, non ce l'ho quando ce l'ho ospite, non ce l'ho quando ne parlo. Poi vorrei sapere che chi scrive alcune cose piene di insulti, poi com'è lui al lavoro quando il suo capetto gli dice buh, che scatta subito in piedi, perché di solito sono coraggiosi via sms, poi sono tutti molto invece allineati. Però detto ciò, insomma, le domande che avete girato, quelle serie, gliele ho girate, compreso il fatto, secondo me, abbastanza importante, che fare il professore e anche il giornalista è molto molto molto più facile che fare il ministro. No, perché questo valga anche per gli altri professori a futura memoria, oltre che per gli altri giornalisti a futura memoria. Gerardo Pelosi in collegamento con noi da Berlino, dove è inviato da Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Hai capito, è molto più difficile fare il ministro che fare il giornalista o il professore. Dipende dove. Ma come dipende dove, Gerardo? No, dai, questo per farla mettere alla Fornero ci ho messo un quarto d'ora. Adesso non mi smontare l'agenzia, per favore. Detto questo, quando è che inizia questa conferenza stampa e soprattutto che si dice, visto che tu sei lì blindato, fra poco arriveranno Angela Merkel e... No, è già arrivato il presidente del Consiglio Monti alle 5. Monti, Letta. Scusa, Letta. No, perché va bene che ho avuto la Fornero, ma se ripristiamo, stiamo a fare il governo ombra qua, Gerardo, prego. Alle 5:30 in punto è arrivato, inni nazionali, presentazione dei collaboratori nel cortile antistante della cancelleria, e da circa 10 minuti sono a colloquio qui nella cancelleria. Immagino che non prima delle 6:30, 6:40. Ah, allora quindi ce la scordiamo la diretta, volevo far ascoltare. Sì. Ti ringrazio per avermi smontato il programma in diretta. Allora, dici che cosa potrebbe uscire, Gerardo, perché a sto punto ti inchiodo. Allora cominciamo col dire che non è un negoziato vero e proprio, è una prima presa di contatti, un giro tra le cancellerie europee, ha cominciato giustamente dal Berlino. Oddio, alcuni ascoltatori dicono che per dare un segnale Letta avrebbe dovuto iniziare da Madrid, da Parigi, poi lasciare per ultimo a Berlino, te lo dico perché lo leggevo prima. Con Madrid c'è stato un colloquio telefonico questa mattina con Rajoy e sembra che ci sarà un viaggio anche settimana prossima a Madrid. Certamente la Merkel è l'osso più duro in questo momento, c'è questa campagna elettorale praticamente ininterrotta da mesi in Germania e quindi anche la Merkel ha grandi problemi a livello europeo di cedere terreno a quei paesi come Francia, Spagna e Italia che hanno i problemi che tutti noi conosciamo. Francia e Spagna, come sappiamo, hanno già ottenuto da Bruxelles una proroga di 2 anni per il rispetto dei parametri di Maastricht del 3% sul deficit. Si discute, ieri si era ventilata l'ipotesi che anche l'Italia potesse fare altrettanto, come sappiamo l'anno scorso l'Italia è stata molto virtuosa e quindi da maggio potrebbe uscire dalla procedura per i deficit eccessivi. Si discute adesso se una proroga potrà far rientrare l'Italia in questa procedura. Quindi diciamo incontro interlocutorio per conoscersi, diciamo, no? E capire anche i temi. Domani Enrico Letta sarà a Parigi, se ben ricordo, però correggimi se sbaglio. C'è un incontro con Hollande, domani, e poi giovedì poi la conferenza stampa, e poi domani sera già a Bruxelles una cena di lavoro con il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, poi colazione il giorno successivo. Pranzo, immagino, no? No, proprio intendevo, diciamo, non in senso diplomatico, cioè cena e colazione, prima colazione con Barroso. Ecco, prima ho capito, no, perché qua non si capisce più niente. Poi un giorno ti racconterò una battuta di una signora che rispose al telefono: chiami domani per colazione, quell'altro rispose 7:30, lei intendeva ora di pranzo. Gerardo, resta con noi, visto che è un po' slittata, vorrei capire in realtà le sponde su cui si muoverà Enrico Letta, perché è chiaro che, come tu dicevi, la Germania è sotto elezioni, io le anticiperei queste elezioni, ma insomma non si può fare. Con Hollande potrebbe avere un'altra sponda dopo il GR, però 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. We'll be right back. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e adesso concludiamo il collegamento con Gerardo Pelosi che è a Berlino e poi andiamo alla borsa e ai temi dell'IMU. Una sola risposta ad alcuni ascoltatori sulla battuta che ho fatto nel finale dicendo ministro lei è tornata al lavoro ma almeno un lavoro ce l'ha. Allora, alcuni dicono che è stata una caduta di stile, altri dicono che l'unica cosa che non accetto la professoressa Fornero era ancora in collegamento per quindi mi è venuta in mente durante e vabbè, e poi questo non è un programma di battute, però volevo fargliela. Caduta di stile o no, poi ognuno lo può pensare come vuole. Non capisco altri messaggi, ma va bene così. Gerardo Pelosi, andiamo avanti. Perché volevo capire un po' quante sponde potrebbe trovare Enrico Letta a Berlino, poche, ma su Parigi, quindi con l'incontro domani con François Hollande. Beh, Hollande già con Monti, ancora di più adesso con Letta che ha la forza di un governo politico rispetto a Monti, certo cercherà di avere questo appoggio perché anche Hollande ha i suoi problemi come la Spagna di Rajoy, eccetera, e quindi questo fronte Parigi, Madrid e Roma si dovrebbe un po' rinserrare, appunto con la nascita di questo governo politico fortemente politicizzato che vede la presenza di una grande coalizione con il PD e il PDL dentro. Certo, Hollande aveva già avuto ampie assicurazioni da parte di Monti, avevano fatto insieme durante i vertici europei un ottimo gioco di squadra, penso un anno fa, sicuramente il Consiglio europeo del giugno scorso, e adesso ci sarà da mettere a punto le strategie per il prossimo Consiglio europeo, che dovrà discutere dei temi economici e poi naturalmente il grande nodo saranno quelli che Letta dovrà affrontare con Van Rompuy domani sera e con Barroso, cioè dovranno chiedergli come pensi di mantenere i saldi invariati con l'abolizione o lo slittamento delle scadenze dell'IMU. Allora io dico subito, visto che molti ascoltatori lo chiedono, poi ne parliamo tra sette minuti. A mio avviso, e cito quello che diceva anche ieri Dino Pesole ma altri ospiti, non esiste un margine. È vero che Brunetta ha detto potremmo aumentare le tasse sui tabacchi, le accise, sì, ma sta iniziando la conferenza stampa, Gerardo, perché vedo no. Aspetta, io sono perché sei collegato con noi, temo che stia iniziando la conferenza stampa, allora ti lascio lavorare, sì. Perché vorrei sentire anche, vediamo se riusciamo poi a alzare un attimo l'audio, però sentiamo anche la Merkel una volta tanto. E gli do il mio più caldo benvenuto, gli do le congratulazioni per aver ottenuto la fiducia per il suo governo. E naturalmente non solo sono felice perché ci conosciamo già personalmente, ma anche perché ci sono altri motivi per rallegrarci per i rapporti tra i nostri due paesi, non solo a livello bilaterale, ma anche per un rafforzamento dell'Unione Europea. E quindi da parte mia dico di essere molto soddisfatta di questa collaborazione che inizia e di questo rapporto bilaterale. Questo è un momento in cui in Europa abbiamo una serie di sfide da affrontare e dobbiamo cogliere l'occasione per iniziare la collaborazione. Io ringrazio Mario Monti per la collaborazione già molto costruttiva che c'è stata e che adesso vogliamo continuare. E ringrazio anche Giorgio Napolitano, il Presidente, che ha portato il Paese in questa fase così difficile e si è impegnato moltissimo per portare avanti il Paese in questa situazione e per arrivare a questo governo. E naturalmente vorrei dire anche a nome di tutti i nostri ministri che intendiamo collaborare intendiamo iniziare questa collaborazione con il nuovo governo italiano. Naturalmente c'è una situazione molto difficile in Europa, lo sappiamo, e dobbiamo rendere l'Europa più forte, dobbiamo fare in modo che questa crisi faccia in modo che l'Europa ne esca più forte. E naturalmente ogni paese ha i suoi compiti da svolgere, anche l'Italia si è già impegnata e ha preso la strada giusta. Ieri il primo ministro, nel suo discorso inaugurale al Parlamento, ha detto chiaramente quali sono le prossime misure da attuare, e io vorrei dire anche che dobbiamo continuare sulla strada già iniziata dalle istituzioni europee negli ultimi anni, per esempio il Fiscal Pact e il consolidamento fiscale, che contiene anche elementi di solidarietà, ma noi da parte tedesca siamo convinti che un'ottima collaborazione anche dal punto di vista politico può rafforzare anche la situazione economica. La situazione fa in modo che possiamo ripristinare, che i paesi europei possano vedere ripristinata la fiducia nei propri mercati e nelle proprie istituzioni. Noi dobbiamo puntare sul consolidamento e sulla crescita, due elementi che non si escludono ma sono collegati l'uno con l'altro, e soprattutto la competitività che porta poi a sua volta a più posti di lavoro. Le previsioni di medio termine, le previsioni economiche di medio termine hanno reso tema centrale la lotta alla disoccupazione, che è diventato il nostro nuovo focus. Dobbiamo investire di più sugli sgravi fiscali alle piccole imprese, sull'aumento dell'occupazione, e in tutti i paesi europei bisogna anche fare in modo che ci siano più investimenti privati e meno burocrazia. Crediamo che con questo nuovo governo potremo iniziare una nuova ottima collaborazione. Sono molto felice di accogliere Enrico Letta qui. Abbiamo già parlato della situazione, dei vari temi e della nuova situazione che si presenta. Io quindi gli auguro tutto il meglio per questo suo nuovo governo, per i nostri rapporti bilaterali e per l'Europa. Così Angela Merkel poco fa. Sentiamo adesso il neo presidente del Consiglio Enrico Letta in conferenza stampa, appunto. Ringraziare la cancelliera per questa occasione e per queste parole così calorose e che accolgo con tanto favore. Noi stamattina abbiamo ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, un voto di fiducia largo, dopo una discussione molto intensa che c'è stata nel Parlamento italiano. Tutto questo dopo due mesi di una faticosa crisi politica. Oggi l'Italia esce da questa crisi, credo, forte, forte soprattutto di un impegno, e l'impegno è quello di continuare sulle politiche di risanamento e sulle politiche di mantenimento dei conti pubblici a posto. Come abbiamo sempre detto in tutti questi mesi nei confronti degli impegni che l'Unione Europea ha chiesto a ogni paese di assolvere, noi abbiamo fatto la nostra parte. Oggi il governo italiano che si forma è un governo, come ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, un governo politico. Ed è un governo che vuole usare tutta la forza politica che il Parlamento gli ha dato per lavorare soprattutto in due direzioni. Sono le direzioni di cui ho parlato nel discorso di ieri e di stamani. La prima è quella di ristabilire la fiducia nella politica e nelle istituzioni da parte dei cittadini italiani che l'hanno persa. La seconda è quella di dare fiducia a quegli italiani che hanno perso il lavoro, a quegli italiani che hanno visto le difficoltà aumentate, soprattutto nel mondo dell'impresa. Ma tutto questo si riconduce in un unico grande obiettivo. L'unico grande obiettivo è capire che la grande crisi che da 5 anni stiamo vivendo non ha trovato soluzioni sufficienti perché non c'è stata abbastanza Europa. E questo è l'obiettivo più forte che il mio governo vuole raggiungere e l'obiettivo che sono convinto raggiungeremo con una forte intesa tra Germania e Italia, perché l'Europa ha sempre raggiunto grandi risultati quando Germania e Italia, con la loro tradizionale vocazione federalista, hanno fatto sì che questi risultati si raggiungessero. E questo sarà l'obiettivo principale del governo che ho l'onore di presiedere. E ho spiegato, ho raccontato, ho illustrato questa caratteristica che il mio governo, il nostro governo vuole dare, un governo fortemente europeista che vuole far sì che nei prossimi mesi, il 2013, ma anche il 2014, nel quale l'Italia avrà la presidenza di turno dell'Unione Europea, vuole essere un periodo nel quale l'Europa finalmente riesca a raggiungere quei quattro obiettivi di unione bancaria, unione economica, unione fiscale e unione politica, che rappresentano l'impegno maggiore che il mio governo, il nostro governo metterà in questo periodo. Soltanto se raggiungiamo questi obiettivi siamo in grado poi di dare risposte ai problemi a casa. Altrimenti tutto è più difficile e noi non abbiamo nessuna intenzione di dire ai cittadini tedeschi cosa devono fare, così come sappiamo che i cittadini tedeschi non hanno nessuna intenzione di dire ai cittadini italiani cosa dobbiamo fare. Tutti insieme, come cittadini europei, dobbiamo fare più Europa, perché solo facendo più Europa siamo in grado di dare soluzione ai nostri problemi in un mondo che è diventato globale e rispetto al quale le grandi potenze emergenti ormai sono diventate delle realtà rispetto alle quali o noi europei facciamo massa comune, massa critica, oppure difficilmente ce la faremo. Questo è il messaggio forte che ho voluto dare qui. Poi avremo più tardi altri incontri, avremo una cena nella quale chiederò consulenza alla cancelliera su come si guida una grande coalizione. E poi vi racconteremo che cosa, quali consigli mi ha dato. Termina qui, mi sembra di vedere, la conferenza stampa congiunta Angela Merkel e Enrico Letta. Tutti sulla stessa barca, avete sentito anche l'ultimo passaggio. Così a naso, ma vale per quel che vale, la mia osservazione mi sembra una posizione più politica, un po' di chi ha dietro anche un Parlamento, rispetto a quelle tenute dal governo Monti. Monti tendeva soprattutto a rassicurare la Germania. Qui invece Letta, seppur in maniera molto molto diplomatica, ha detto: non va bene così perché siamo ancora in crisi, occorre più Europa, questo è stato l'errore. Noi in Italia dobbiamo ridare più fiducia alla politica, però anche l'Europa deve dare fiducia e prospettive. Una battuta mi veniva quando Letta ha detto l'Europa ha avuto grandi periodi solo quando Italia e Germania si sono alleate. Diciamo, oggi basta con le battute. Traffico, chiedo scusa per il ritardo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, adesso facciamo la borsa. Vedo però che Angela Merkel ha detto: in Unione Europea abbiamo preso decisioni comuni, la Germania non è isolata sul rigore. No, isolata no, diciamo che non ha i grandi paesi con sé. Spagna, Francia, Italia la pensano diversamente, l'Olanda anch'essa tentenna, poi la Polonia mi sembra che sia più sul fronte, diciamo, francese e italiano, sì, ai paesi del nord, per carità, però insomma bisogna anche contare, i paesi si pesano oltre che si contano. Comunque, Paolo Paronetta, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Un'ora, mi dispiace, chiedo scusa agli ascoltatori, ma oggi la puntata è stata un po' fatta, diciamo, alla carte, con quello che stava capitando. A un'ora dalla chiusura di borsa commentiamo questa giornata, devo dire, non particolarmente drammatica, su nulla. Parigi meno 0,30, Francoforte più 0,50, Milano meno 0,90, Londra meno 0,40%. Partirei da Fiat Industrial è il titolo peggiore, meno 5,30%. Sì, esattamente, ha chiuso in coda al listino principale di Piazza Affari dopo aver annunciato una trimestrale in calo e inferiore alla previsione del mercato, e dopo aver tagliato le stime sul 2013, in particolare sui target sono peggiorate le aspettative su fatturato e margini, mentre è stata rivista al rialzo quella sull'indebitamento. Quindi tutte notizie negative, e ovviamente il mercato ha punito il titolo con un calo del 5,3% appena sopra gli 8,5 euro per azione. E la performance di Fiat Industrial ha pesato anche sull'azionista di riferimento Exor, che ha chiuso in calo del 4,8%, e su Fiat S.p.A. è -2%. Fiat S.p.A. che già da ieri è stata penalizzata anche dalla sua stessa trimestrale, anche se in deciso calo e sotto le attese. Paolo, un po' di pazienza, vorrei sentire Enrico Letta che sta rispondendo anche alla Merkel, che ha detto non siamo isolati. Questo è il tema di fondo. Quindi noi non vogliamo, abbiamo fatto tutto quello che era necessario e continueremo a fare tutto quello che sarà necessario per mantenere i nostri conti in ordine, ma riteniamo che l'Europa debba fare politiche per la crescita. Bravo. Ecco perché le decisioni che il Consiglio europeo dell'anno scorso ha preso, appunto tutti insieme, a nostro avviso devono essere applicate, soprattutto la parte sulla crescita, e vogliamo insieme ai nostri partner europei, la Germania in primis, discutere nei prossimi tempi di ulteriori interventi che aiutino politiche di sviluppo, di crescita a livello europeo. Ovviamente questo dentro il contesto che dicevo prima delle quattro unioni per le quali lavoreremo incessantemente, l'unione bancaria che è già stata decisa e quindi non dobbiamo perdere tempo ad applicarla, e poi l'unione economica, quella fiscale e quella politica. Questo è l'impegno nostro che vogliamo metterci, e questo stesso ragionamento io lo farò anche domani a Parigi, domani sera e giovedì mattina a Bruxelles, e poi successivamente, subito dopo, a Madrid, dove anche lì, andando a presentare il programma e le linee del governo italiano, dirò qual è l'impegno che il governo italiano si prende nei prossimi passi della discussione europea, che sono esattamente quelli di fare anche delle istituzioni europee protagoniste di politiche per la crescita, che sono assolutamente necessarie per far sì che i nostri cittadini non vedano l'Europa come un qualche cosa di negativo, ma vedano l'Europa come invece qualche cosa di positivo. Questo è il senso dell'impegno che vogliamo mettere, e che è al cuore, come chi ha ascoltato il discorso di ieri in Parlamento sa, del nostro programma di governo. Beh, devo dire, adesso torniamo in diretta, volevo sentire la replica di Enrico Letta a Angela Merkel, perché Letta poco prima ha detto: vogliamo sulla crescita da parte europea lo stesso impegno e determinazione usata per il rigore. Mi sembra che abbia tenuto il punto, e anche qui qualche parallelo si può fare col precedente governo Monti. Evidentemente è un governo politico, lo dico in un senso, non è che la politica sia solo male quando ruba, non fa le riforme ed è autoreferenziale, ma poi serve, e lo vediamo quando pone temi politici, e quindi resta sul punto, non va, diciamo, a portare i compiti che abbiamo, solo a portare i compiti nei fatti, ma anche a chiedere lo stesso impegno messo sul rigore anche sulla crescita. Paolo Paronetto, scusami, abbiamo un minuto scarso, ma oggi la borsa va così, poi ricorderò io i titoli. Vorrei solo sapere come è andata Luxottica all'indomani dei risultati del primo trimestre? È stato il terzo peggior titolo del FTSE MIB, ha perso il 3,4%, in questo caso i risultati sono stati in crescita, ma in questo caso si tratta degli investitori che hanno venduto al momento della pubblicazione della notizia, dopo che il titolo era salito di recente, proprio in attesa della pubblicazione dei conti. Gli altri titoli: Bene Tenaris +1,26%, Enel Green Power +0,56%, male oltre Fiat Industrial, Luxottica, come dicevamo, anche Exor, la controllante del gruppo Fiat, -4,76%, Lottomatica -3,20%, Mediobanca -2,5%, Fiat -2%, Fondiaria -1,90%, Enel -1,80%, come Salvatore Ferragamo, Banco Popolare -1,70%, Monte dei Paschi -1,60%, come Pirelli, Azimut e Unicredit perdono 1,5%, Intesa San Paolo l'1,22, Snam lo 0,90, miglior titolo Noema Life +8,76, e Deutsche Bank +6,22, peggior titolo Media Contact -7,70%. Grazie a Paolo Paronetto. Domani le borse sono chiuse, vi sarà una puntata speciale di Focus Economia in cui ripercorreremo queste ultime due intensissime settimane. Da Sebastiano Barisoni un auguro di buon primo maggio a chi non lavorerà, e a maggior ragione di buon primo maggio di buona giornata e buona serata a chi domani sarà al lavoro. Radio 24, la passione si sente.